arrivato a provarlo a che tempo, ma non funzionava. L'ha comprato l'originale, Giovannino l'originale, non so quanto l'abbia pagato. Io l'ho aperto, che mancava il binare audio, quello grande a tanti tipi, non c'era proprio quello lì. Cioè, se uno compra un baracchino, al finale c'è dentro, non ho capito. A meno che non sia seconda mano. Sì, usate di quelli che mettono a vendere, vendo un baracchino 50 euro, 100 euro, a volte non lo vendo, e accendere già accendeva, ma non funzionava, perché ti mancava quello lì. Però ho visto, l'ho trovato un baracchino vicino io e gliel'ho messo, piazzato, ed ecco, non ho fatto altro e sta funzionando. Ah, beh, se te lo metto 40 euro, ma ti ho stato quello che trovi una gangata, cosa è quello lì, ti toccato. Finché non vedi sai dove cercare la persona e sbagliare la testa, ma fuori come fai? Trovi in un'altra e te la tieni, almeno puoi rimanere indietro, no? Tanto non te l'accetta, quindi ti attacca il tram. Solo questi canali, no, però c'è il canale sopra e sotto dalla casa, questo c'è il, nasce il doppio modulatore, questo dalla, nasce, questo è un PSK, hai capito, il PSK. Ah, è preso, già l'ho avuto quello, a Uglia, ho avuto anche il Jackson io, quello modello grigio e quello modello nero ho avuto. È positivo così. E questo è il va benissimo, va benissimo. E poi c'è tante funzionalità, e quante, come si chiama, dai, un 801, un 87, un tornado, la cassetta è quella. Ecco. Anda bene. Ti riesce bene a voglia, ci mancherebbe. Vedi proprio uno un microfono di quindi M300 che vedi. E funziona bene questo. Avanti, Antonio. Antonio se lo l'altro cassetto sto usando. Quello che gli ho dato io. Funziona con l'M300, vedi un po'. Sì che funziona. Meglio o meglio. È molto più forte. Già funziona, l'unica cosa che negli MTS sai cos'è, quando lo usi un po' di tempo tende a il cursore della portata del microfono a rompere un po' le palle, capito, le lamelle, si forma una specie di ossido, quindi devi stare schiacciando 4-5 volte, una volta che si toglie l'ossido poi funziona bene. Allora tanto scappa vabbè niente tanto se si mette in moto già va dai. Allora questo è l'altro ancora, non so se sta funzionando, le batterie sono mezzo scariche, questo è l'altro, un altro M300, un altro ancora è buono, mi sembra meglio dell'altro, lo sai. Dipende come lo rigoli, capito, dipende da se ti nascosto nell'altro coso. Hola. Sì, dammi sempre un'altra parola. Ma chi lo fa l'M300? La Intec, chi lo fa? Lo faceva forse, adesso forse non ne facciano più. Questo lo prendo, adesso ce l'ho un sacco d'anni, me l'avevo dato a riparare, non so manco chi me l'aveva dato, un camionista, non mi ricordo chi è, non c'era mai venuto a cercarmelo, ce l'ho ancora una decina d'anni qua, sempre messo. C'è un bel capo, c'è un capo bello lungo, morbido, che lo puoi allungare un bel. La batteria scarica, perché scarica, se non questo me lo sto dicendo, che è in sotto di quanto deve essere. Comunque, no, dei microfoni. Sì, si assomiglia al mio 550, si assomiglia a lui. C'è la stessa cosa. Capo, poi c'era un altro che non l'ho provato, c'era sempre lì, però non ho mai messo la batteria, provato e c'è anche quello. sono fissati, no? Non so più niente, sta meglio te di fare l'altro accorso a come si chiama, a più un certo il molo, uno l'ho dato a Massimiliano Cultore, due ne ho preso, sta meglio tre. Poi quello rosso dell'allenamento Guzzaira l'ho dato a Claudio, che poi c'era Giulio. Poi ce n'è un altro qua, c'è un altro qua che è un po' vecchiotto, che non mi sono mai messo a metterlo a posto, da qua. E niente, quello non l'ho mai messo a posto, è sempre in ferro, e quelli che è della, non mi ricordo cos'è quello lì, c'è adesso qualche cassetta lì. Quelli già pompano, quelli vanno bene. Io sto usando un MB più 4, è un regalato, cavolo, paga la meraviglia. Sì, quelli vanno bene, MB più 4, più 5 ne ho ritottata, io di quelli lì. Anche modificati, avevo dato uno in cambio di un'altra cosa con Baracchino. Ho dato tutto il coso, infatti ho lavorato con un... se ho 23 canali o cose di quelli toccai, questi diciamo, quelli lunghi, cilindri, questi metallizzati che c'erano una volta, quelli con pochi canali. Questa cosa aspetta che vado subito. Sarà il toccai, sarà. E mi pare una cosa in gomma, va, di una specie di custodia in gomma, va via. E quelle ce le metallizzate lungo, a quasi. E ho toccai, mi pare ieri. Penso di sì. Questo sto qua me l'ha dato, cosa me l'ha dato? Me l'ha dato un natalino, perché dice no, che ne aveva già un altro, non ne sta usando perché ha problemi col condominio, quindi ha detto vado omologato, vado e via, e cosa fai? Ma va che una cannonata va. Sì. No, Natalino sta a fare anche la modifica a quello lì, ma anche tuo padre va a fare. Anche tuo padre va a fare quella modifichetta col microfono lì. No, lo lascio così originale, lo lascio, che va bene. Sì, quel ponticello che devo fare, vedi che radio che ti dà. E li cambia la capsula. Tuo padre già le sa quelle cose, già le ha fatte altre cose. Già lo so, ma Edno non si sente più di fare queste cose oramai, non sta bene. Ma non sta lavorando, come voglio dire, non sta bene di salute. Caffa, non sta bene, no, cioè lui non sta bene in salute, no. Non c'è in questi giorni no, non c'è. Caffa, dai, no. Insomma, ci siamo sentiti un po' di tempo fa, stagionalmente, quando c'erano quei ma qualcosa nel telefonino, qualche volta lo sentivo, capitava che entrava e lo sentivo, ci sentivamo lì, capito, ma è già un po' di tempo che non entro più lì. Cappa. No, adesso non ci sta venendo e... Diciamo che è ricoverato, dai, da ieri è partito a Cagliari, non sta zibrendo. Ma sono problemi, diciamo, problemi seri o altre diciamo, cose diciamo, che si può risolvere benissimo? Sì, no, già si può risolvere. Già si può risolvere. Perlomeno lo spero. Ma speriamo tutto bene, raga. Speriamo tutto bene, perché no. È stato sempre un grande lavoratore e diciamo è una persona che ci ha fatto sempre il suo dovere, capito? E poi ci siamo ricompensati subito, ragazzi. Più tu dai la fa, più ti cose, poi non hai niente da vita, ragazzi. Lo so, io ho imparato a fare una cosa, lavorare e godermi la vita, perché tanto poi non ne abbiamo niente poi. Lo so, adesso mi sono un collega mio in fotografia, il coso, il fisico, adesso guarda, dovevo andare, non so se ce l'aveva fatta andare in pensione, ma era andato a pochi mesi. Eppure lui ha preso la funerale, ha preso il mantello, ma non so neanche di cosa sia morto. Era un carissimo amico di Serrata, dai. Era di Serrata, lui si sveglia proprio le cestere, il camionista, c'eravamo una vista, cavolo, molto più giovane di me, eppure non lo so, non so di che cosa stiamo, comunque ho visto la cosa in Facebook, capisco che era mossa la fotografia, però non so di che cosa gli sia successo. Un attimo M, un attimo e lui, oggi ci siamo e domani non si sa. Mamma mia, va. Lo so, vai. Lo so, dopo. Da poco è morta la moglie di un cognato, dopo ancora lontana. È stato un po' di fatto, dato con due bambini piccoli, cavolo, e dopo non so che cazzo si può fare. Dovevano avere figlioli minori, è una condanna a me. E chi li tiene questi bambini? Mamma mia. Pure, da mangiare tutto quanto, ti devi sacrificare. Lo so, poi lì quando c'aveva era di Roma, i genitori avevano finito da poco e gli è arrivato solo un fratello su a Roma. E non aveva neanche fare i tipi questa ragazza, perché poi solo un fratello gli era rimasto, e non si muove, e un fratello era morto in incidente, e gli è arrivato un fratello che c'è, e niente, si deve la scusata, la moglie di fratello di amore, era un cognato, e niente, gioca un cazzo 40 anni, e solo lui, che lavora, il fabbro e quelli d'acciaio, il lavoratore d'acciaio specializzato in quel lavoro lì, e tra lavoro e cose dei figli non so come si stia gestendo anche in questo periodo, non so come fare lavorare e tenere due bambini piccoli, capito, uno che cammina appena solo di fare il bagno e l'altro che andrà via all'asilo, no? È un casino, è un casino, sì, poverini, sono tragedie per le famiglie, e poi qualcuno se ne deve prendere anche cura per non finire in istituto, è un sacco di cose, viso, non sono cose belle, no? Sì, almeno che abbia la fortuna di trovare qualche donna che lo prenda con questi figli, che si metta a che... però non sono entrato più in merito per non entrare nei fatti degli altri, però mi ho regolato questo, perché sai che conosce qualche donna che sappia che si metta con lui e tenga questi bambini, che si capisco, perché se no un casino poco. Sono disgrazie brutte. E tuo figlio, quello che faceva il trasportatore, non l'ho più sentito. E quello che sta lavorando, dai, quello è il truppo, adesso è preso ricette, cose, lavora in proprio lui. Cioè fa il lavoro in proprio, non è più baracchino. Sì, già ce l'ha, però c'è un'antenna provvisoria, io devo mettere, però lì c'è veloce nessuno, non si preoccupa, si scanna, ho capito. Uno dei suoi baracchini ce l'ho qua. Anche la scena 2001 ce l'ho qua. E niente, però... Ma ce l'ha il baracchino, però non lo sento mai, non entra mai. Infatti non parla mai con nessuno, perché non c'è nessuno più a baracchino. Lo so, sono stato un po' sul 5 a sentire, a Cavane Boccio che ci impiacciano di GB Talk, cosa è? E la gente si sta trasferendo lì. Ma è un casino, non mi piace quel coso lì. Ma poi ho preso anche il microfono, il microfono suo, ci aveva tuo padre. Non so che ce l'ha presa, ma poi la sapete, non è... Se tu accendi, io ce l'ho con il programma, accendo solo le giornalisti, mi so di 3-4 brosci che cazzo non esiste, che si cazzo di fare la voce della fede, che più che così non so, proprio. Senti, quella cosa che tra un padre pure, che fa la parte di Manuel Torres, senti che io... sì, ci voleva fare come ci voleva. E l'hai sentito mai quelle non so come si chiama, fanculo, di nome, sono sempre in cerca di uccelli, quelli lì, ricordate, sempre in cerca di uccelli, sotto. Come si chiamava? E ho capito che stai dicendo, ma per carità, da. L'hanno eliminato non so quante volte nel periodo che ascoltavo, ma sinceramente sono persone insignificanti, sono baccaridai. Mi pare un'idea, forse ho chiesto, una cosa del genere. Ehi, no, è solo Gisù, no, che fanno. Chi date la baccaridai, la tumacco. Ui. Come si chiamava? Bah. Non mi viene adesso. Gigi Luca! Chi è questo? Luca del Monte. Chi è vivo? Gigi Luca, no, gava! Ciao Luca, riegge. Ciao lui, no, sono al monte però, sono a Carzona. Ciao Antu, riprendi. Sulla matta che ti ne va, ti sei poco voce, già. Gigi, che mi chiama Luca del Monte, che mi chiama Malincomio, che mi chiama Gucci, che mi chiama Gura, andiamo a muovere. Oh, però questo ventilatore ti manda l'aria fredda, amico, con la ventola. Se fai un scudo, ti manda l'aria, vabbè, sono maniche corte, ma cazzo, ti manda l'aria fredda. Siete vecchi voi, io ho un maggio freddo. Non c'è lui anche questo lui adesso qua, ma no, ma non è un freddo, capito? Io sono giovane ancora, è freddo come sempre, io non sono figlio come un furto. Ma l'hai detto, no, vabbè, sono maniche corte però, Gigi. Oh, Luigi, me ne sono ricordato, Tamburello si chiamava. Tamburello, Tamburello, quello lì. Baccaridai. Bene, mi senti Luca? No, ti io lo altro che mi metto il golfo, Qua in questa camera c'è freddo, capito? In casa non ce l'hai freddo, però in camera quasi. Papà, ti stavo dicendo Luca, bene mi senti con l'MB4? Adesso sì. Che macchina è quella tu? L'87 con l'MB4. Ah, ok, dai. Ma tuo è? Mio. Va bene altro, di lusso, perfetto. Giappa, adesso già pompa ya. Dai, metto il microfono normale, guarda che così no, metto il microfono normale. Ma se lo sei tu, se è l'87 l'MB4 che c'è la modifica, non è che stia spingendo molto, già si sente che è meglio del lato che hai, però deve spingere di più, o magari ha la LC chiusa, bisogna aprire ancora di più. Modifica non viene, no, che aspetta. Ah, va meglio così. Fai un passaggio, prova. 1, 2, 3, prova. Cazzo, ma parliamo con du. Ma è un bel forte, la passiamo di un pilino, la passiamo di un altro po'. Ecco, così va meglio. Sì, ma mi fa sentire una maledà. Allora lui gli ascolta un po' basso, forse basta che sono un po' più fatti. Vabbè, tu mi stai arrivando Santiago 2, quasi 3 o... Non so se sono tutti io, però per sei passo un bel tuo, Luca. Anche tu stai arrivando Santiago 2 quasi. Santiago 2, Radio 2, ti ascolto basso, dai. Vabbè, io ho l'antenna nel terrazzo, Da forse mai nella zona tua, e purtroppo l'antenna è dall'altra parte, per quello ti arrivo basso. Positivo, non lo so, non lo so. Eppure, no, già... la posizione sarà, non lo so. Vabbè, io ho abbassato molto l'antenna, Da come la prima è molto più bassa adesso, L'hai abbassata. L'altro giorno avevo sentito a tuo figlio, avevo in radio di mattina con Claudio. Claudio non l'ha riconosciuto, io l'ho riconosciuto subito a Pierpaolo. Ah, positivo, devo fare l'impianto ancora, capito, su quel mondo, solo non voglio ruminare, a buccare, a fare, devo fare l'impianto su quel cambio lì. Chiappa, riprendete, un attimino mi sposto, vado in cucina, a fameretta, riprendete tu. Ciucchicciu. E cosa vuoi, ciucchicciu? Ma allora, cosa dite? Eia! Avala già caldo me, non erano contenti, ha detto, ci saliamo un po', avessi pompa. Lì, se metti salente hai fatto crescita, adesso scendo io. Fai scambio con Salerta, con quelli dei BP, più 4 nuovo che c'hai, e vedrai che fai 13 con Salerta. C'è un attimino di fianco, ripeto subito. Ma no, rimane qua l'MB più 4. Secondo me fai male, perché Salerta è molto meglio, come amplificazione, totalmente diversa. A me ogni volta quando incontravo con quell'autotossette Luca mi diceva abbassa, sei troppo alto, si sente tutto, si sente il cesso, si sente il gabinetto, si sente Simona che parla, che traccia, tutto sentiva in salone. Hai capito? E quindi per quello sto dicendo, amplifica molto, ma molto di più del più 4 e del più 5 Salerno. No, ma chi è che vuole entrare? Nessuno. Ah, vabbè, no, non mi interessa. Questo rimane qua perché è un regalo che mi ha fatto un amico e non voglio darlo a nessuno. Capito? Vabbè, quello non è il problema. Se è un regalo, dobbiamo ce ne stanno. Vabbè, e quindi ci tengo molto, ci tengo. A me mi basta questo, cavolo, non andava bene. Poi come dice una persona, i microfoni non vogliono toccati, vogliono lasciati così, originale. Vabbè, io sono due le ho modificate di quelli di microfoni, gli altri due li ho lasciati così come erano. E così si erano comprati. E nessuno si è mai lamentato, la verità. Ma vabbè, ma se è nato per essere così deve essere, cioè, deve stare così secondo me. Poi l'amplificazione già c'è, è abbastanza forte, io vedo che sta pompando, ha voglia. No, già c'è bene, adesso quindi intanto devo andare a fusare un attimino, cioè vicino a lui, per fare una cosa, quindi passo la fusata, se c'è un microfono amplificato me lo prendo per il 3009. Più che altro non è meglio davanti a secolo, che tanto costano un po' la fessiglia a quelli, e prendo uno di quelli, poi apriamo un po' di cavo e dici quanto per piazzare i baracchi da Giovanna, vediamo, lo glielo metto in canale, gli faccio il foro e glielo piazzo lì, glielo piazzo, tengo il cavo in verde e non posso fare altro, Antonio, almeno non si vede, capito, e non ho paura le palle. Così si passa il baracchino in camera letto, Giovanna, a me lo parla a casa sua. Si mettono il 3009 su, a me lo parla lì. Ma lo vuole Giovanna? Sì, vabbè, già lo usa Giovanna, vabbè, deve naturalmente nasconderlo, perché se c'è il nipotino, capito, adesso tocca tutto, quindi si mette a toccare l'alimentatore, il baracchino, e quindi a un certo punto, hai capito? Già usa telefoni, figura, usa il telefono di Giovanna, si mette a telefonare. Se dai qualche male con l'indiale, sa usare anche quello, sa usare, quello è poco ma sicuro. Non è come noi, ti dai un effetto, ci vuole 3 giorni per espressa quello usare, quelli quando lo vedono, no, faccio così, faccio colà, guardano, capito, e sanno come fare. Non più ero bizzino. Hola. Radio Ducato, bye bye. Come il nipotino? Perché la figlia c'ha già un bambino? Giovanna è nonna, già lo sai, sì. Quindi c'ha nipotino in casa. Il cavolo, è giovane, me. Lo so, già è intelligente quel bambino, non ti preoccupare. È sveglio, ma un bel sveglio, a quell'età che c'ha. La figlia quanti anni ha? 19. Cavolo, c'ha già un figlio, ma vive con lei il padre? Vive con la nonna. Ah, è tutto... se non lavora manco un gas se vuole pigliare. Infatti. Gaba. Cavolo, poco fa ho toccato i cosi, i vatti ho toccato. Adesso già va bene. Ma è vatto di legnare o cosa? Ma cosa vatto di legnare? È vatto apparecchio. Chi è che vuole entrare? Avanti. Chi è che mi può passare? Buonasera a todos. Buonasera, malvato. A te le va la Carbonazzi? Oh, a Carbonazzi. Io gioco a casa. Buonasera a tutti, dai. Sicuro. No, già è a casa già. Arriva a fondo scala ai nonchi. Sì, domani. Te lo giuro, se no non me la rivido così, non ti preoccupare. Allora, spero, come fa a passare a te, che ti passa di brutto? Oh, pochi fatti, non so quanto sta andando lui. Adesso sono tranquillo, dai, va bene così. Adesso sì. Io sto usando il Cobra in questo momento, non so come stia andando. Sono un po' di tempo che non lo uso e via dicendo. Come salvando? Si è emozionato. Antu, parato Z. Come sta andando di radio Alessio, questo apparecchio? Che sono da un po' che non lo uso, adesso l'ho acceso. Dopo tanto. Bene, a voglia. Ma questo è il Cobra. Il Cobra a gara. Se aumento la potenza, va meglio. A voglia che va, oh. A voglia che va. Io come tu, come mi senti lì? Bene. Cappa, con l'MB più 5 sono. Sei già emozionato, ma ciao. Perché Ali? Ehi, sì, te lo sta stamattina tu che va benissimo con l'MB più 5. Alessio, perché quanto ti stava arrivando? Quanto Antoni, vabbè. Più che altro devo regolare lo smitter di questo barattino qua. Quindi mi ha fregato per quello. Hai capito? Quindi adesso sei 9.25, poco fa il 9.30, è passato anche Antonio, figurati tu. Ma io ho pochi watt. Adesso ne ho 2, ne ho 3 watt. Per quello ho detto, secondo me si è carbonato perché è libero di cosa lo zero, quindi figurati tu. Ma magari. Antonio è più vicino lui di me. No, assolutamente no, sei più vicino tu di lui qua. Tu è agente storico, tu sei molto più in alto di Antonio. Sei di fronte a me, in aria. Io sono in un fosso, perché sono zona alta, per cui la mia via scende. Io sono con un fosso, con la zende. Comunque a te lo sta scendendo bene, dai. Ma non andava bene quel microfono, te l'aveva attaccato Luca. No, questo andava male. No, lascia perdere quello lì. Che da parecchio non va, si è bruciato. Questo qua l'ha attaccato qua che fa molto molto meglio. Quello che faceva la lanternata è guato e basta. Ascolta, è questo qua. Questo qua che apparecchio è altro? L'87. E bevi. Forse ne fare in di l'aria, forse. E dove esci da Pizzun lei? Ciao Cucca. Forse ne sta scendendo l'aria, forse. E via. Pompetta! E tutta la vita. Sì, vabbè, adesso era quasi l'ora che c'era il sole, poi adesso sta scendendo l'aria, tra un po'. Sta usando l'87 comunque Gianni. Della Midland. Non ho capito, no. Sto usando l'A87 della Midland. Quello di notte che sembra tutto con quel microfono che gli ho dato io. Adesso c'è l'MB più 5, sto usando quello e a posto. È tutta roba di microfono. Più 4. Ieri usciva tutto con l'alternata. Più 4. Vabbè, tu dici più 4, più 5 a volte, cazzo, non so neanche io cosa, quello che sto usando tu, cosa uso io. Ho comprato MB 5, adesso MB più 4, vabbè, è uguale, non cambia nulla, sempre MB è comunque. Tu dici l'altro. No, è il più 4, ti ho detto, mi riconosco me. Non è il più 4, se non c'hai tuni, cambia, a te non cambia nulla, cambia. C'hai tuni uno e l'altro non ce li ha. Il più 5 c'hai tuni, il più 4 no. Ma vorrei sapere la mia opinione, a proposito preferisco questo. Va bene, che quello là è bello, però ho sempre preferito quello, quello ce l'ho avuto, però mi piace più questo. Dipende chi lo usa, tu. A me mi va meglio il più 5 perché posso regolare i toni e per la voce mia ci bisogna regolare. Ah, va bene questo. Bravo. comunque va meglio adesso Gianni, sì, non c'ha più quell'effetto pettinatura. Ah, va meglio, va meglio. Sei chiaro adesso. Ci vorrebbe, guarda, ti ho detto, guarda, vedi tu Saletta che va meglio, ho detto la verità. Esce meglio, esce più forte. Ha detto che lui va bene quello lì e non c'è nessun problema, perché già lo sai, io in quella paletta lì ho usato in Saletta e quindi ti ricordo, mi dicevi, ah, tu mi abbassa, abbassa, abbassa, si sente subito, si sente anche l'avvento, eccetera, eccetera. Saletta è sul microfono. Questo l'ha regalato un amico e ci tengo. Cala, cala. Guarda a te, ti rimasti non batti dei regali. Scappa. Anche l'altro è qua sempre, è l'altro lo dratto quando esco fuori. Non si porta a me in moto? Qualche volta è in macchina, me lo metto. Scappa. Anche in bicicletta l'ho usato, ho visto che l'altro giorno c'era in bicicletta. Eia. Andava bene, mi sentivo bene. Qualche volta, già lo uso già, già lo uso. E meno male che ti serve, va. Scappa, mi serve sì, lo uso. Sciuga. E però un poco, ci continuano a ciumeggi, chi c'è va? Ci faremo tutta a muoio. Ah, ti dice che sono quella campagna alla gara. Sì, ma mi ha detto una bassona, mi ha detto che ti sei fidato, sempre di Randy Eva. E c'è la Marino, la fa anche a me. E allora, dite che fa una risaglia, dite la sua casa. Adesso che ci raggiungo i puzzetti, ha detto che la fila te dico un pieno, alleluia. È un casino, eh. In campagna poi cammini del fango. Ma adesso basta, spero che questo mese la finisca, mamma mia. Così marcisce le piante, se ne fa troppo, marcisce, capito? All'anima di lei, vabbè, pure mi intendi sta cosa. E questo microfono bene vanto, sto usando il ZG, quello di giocattolo, quello che ci aveva prima il cursore giallo, quindi l'ho fatto nero. No, gannonata il suo microfono, ma è originale. Gli ho cambiato la capsula. Buono, è buono. Sono messo e c'ho le FM 500 SM all'automarco e l'avvocato che me lo stacco in culo in pratica. Quello che ho fatto l'ho fatto tutto io. Ma me l'ho tutto io l'avvocato. L'ho fatto io, l'ho fatto tutto io. Ma come la tarina, tale uguale. L'unico microfono che va bene è solamente il coso, quello con l'eco. Basta, non va bene nessun altro microfono, l'unico che è azzeccato. Dimmi, Emilia, bravo, ci sei arrivato. L'unico che è azzeccato è quello. La parte è quella, l'omologato è quello. Non ci posso fare niente, allora c'era proprio della concessione, eccetera, eccetera, l'ho preso e me l'ho comprato anch'io. Cazzo, gli hanno fatto l'affare, già 23 euro di spedizione, non lo so io. Quando mi è costato il coso, di meno a farmi levare un binocolo, la verità 3 euro, per quella merda di coso, di baracchino. Io più che altro sto cercando un alimentatore buono da 50 ampere, ma con gli strumenti, da me non mi piacciono gli sicinesi. Allora caro mio, prepara tu 250 euro, costa così quell'alimentatore lì, con gli strumenti, a meno che non trovi una persona, cioè un alimentatore con gli strumenti, ci metti lo squeak qui dentro, togli tutto il trasformatore, quello che c'è, e gli colleghi gli strumenti e basta, non devi fare altro. C'è il interruttore, lo strumento, gli ha fatto tutto quanto, ha fatto bene veramente. Oh, non sta piovendo, no, no, no. Sta nevicando? No. Va lui. Ah, non sta piovendo, sto facendo finta di piovere. Oh, in questo momento è un diluvio qua, Qua è un diluvio, in questo punto. Già laggiù visto, già. Aspetta, un cado. Cabo di Pedivella, minchia, ciao Lu. E anche qua il topo sangra, c'è la piazza lì, l'entrata, lì sto fango, Casino, casino. L'acqua fa bisogno, però quando è troppo, da. E come c'è Gianni, pure io sono a casa, al calduccio, che se ne frega la graffa. Tanto è, ma io che non entra. Volevo uscire in macchina oggi, detto, se fa bel tempo, sono in macchina, questa l'antenna, ma con la guleva come ti fai? Che ti ha fatto dal finestrino pure, vero Marco? È solo estiva quell'antenna. Ma porca miseria, però la gomma dovrebbe tenere già, se tu c'hai una guarnizione nella Opel, c'è una guarnizione bella cicciotta, no? Tu una volta che chiudi la pioggia non entra, non dovrebbe, insomma. Stavo dicendo, ma è strano perché nel pomeriggio c'era il sole e adesso tutto l'opposto, il cielo nero, pioggia forte, il tempo è tutto a contusoio. Ditemi come la modulazione, come la trovate questa, passabile, accettabile, com'è, difetti, pregi? Buona, buona Marco. Va bene, era fermo da tanto, era fermo da un bel po' e la roba lasciata ferma si rovina. Bisogna smaltire qua la roba, bisogna regalare radio qua. Adesso. Avete parlato in due. Buonasera, chi è entrato? Avanti. Già viene Bogo di scioppa. Ciao Claudio. Adesso provano a accendere un computer che era qua. Sono a Marina, un portatile. Sa che manco lo usa. Vediamo un po' come dovrebbe funzionare, si già funziona. 5 apparecchi, 7 apparecchi, prima più a fortino di apparecchi. E prima la grande è in te. Oh sì. Cosa devi domani, ecco. Ah, c'è la cosa. Apparecchi, là, e va giù l'apparecchio nella Lecci. Ti interessa, lo devo vendere 7.000 euro. Buonasera Claudio. Sì, buonasera a tutti, buonasera. Tutti gli apparecchi, ma vedi? Un'idea fortiva, ovvero la vista per l'atterraggio. Davvero mi Claudio? Mi serve un armadio, un secondo armadio, perché il primo l'ho già riempito tutto. Sono uno sopra l'altro, impilatimi praticamente. Noi impilati. Marco, ti aiuto io, se ne è trucco. Tu lo puoi mettere sotto il letto. Allora Luca, impilati, cioè uno sopra l'altro, perché in larghezza è già tutto occupato. Già ho capito, sono certo. Io ne ho quattro, ma non me la fregano e basta. No, quello l'ho modificato, solo che la gente lo vuole a regalo, ma non è che, oddio, non è che mi fanno comodo dei soldi, lo sto dando perché tanto non lo sto usando, è a casa buttato. La gente lo do gratis, ma io non meno di quella cifra non lo do, si può pure una ziga in chi va a casa. E quale? Quello Colt. Quello è da amatori, quello è da amatori, da camionisti, autotrasportatori, però giustamente tu l'hai pagato e l'apparecchio va pagato, non è a regalo, è troppo comodo, quello costa anche. Vai, fate girare, io sono all'ascolto qua, fra un po' stacco tutto perché al primo tuono che sento straccio tutto, alimentazione, antenna e tutto, anche il computer, e non voglio rischiare, ok. Vai Claudio. Vado a fare un buon impianto, vedi tu, non ti fanno niente. Via. 5 apparecchi, 7 apparecchi, 4 apparecchi. non apparecchi ne ho solo 4, gli altri sono tutti baracchini. Va bene, va bene, comunque sto arrivando, è una bella perturbazione, acqua di rotto, tutto nero, tutto spento, non c'è luce qua, la strada, non ho capito che è successo. Ah, ha brincato tutto in aria, Ehi, qua c'è stato un abbassamento di luce però distante. Non so, qualche temporale così di passaggio. Qua si chiede il vento, è tutto. Vabbè, comunque, faccia quello che vuole. Dentro casa già non ce n'è di acqua. E una te che tocca, tu quanti apparecchi c'hai e quanti ricoperi c'hai, Antonio? Io la pedisvella, cra. Io? 1, 2, 3, 4, più 6 portatili, la verità. Sì, i portatili non li conto neanche io. Portatili non li conto neanche, se conto quelli SDR, quelli digitali, quelli analogici e quelli normali, mi vanno a girovizi. Ne cosa ne vai? Boh. Servono niente, no? Va bene, dimmi Antonio, sei soddisfatto di questo nuovo ricotto che c'hai? Ma va bene, va bene. Alla fin fine, là, mi sono fatto una piccola stazioncina con poche di là, dai. Hai visto, hai fatto bene, non voglio baracchini, non voglio baracchini veicolari. Io compro solo baracchini base. Adesso ne sto arrivando un altro, stiamo aspettando, appena arriva, e anche quello, improbabile, e sono sicuro che non c'è nessuno. Tutto qua, avanti Gianni, riprendi. E che apparecchi è? Che baracchino è? No, non te lo dico, quando arriva ti faccio una foto e te lo mando. Sì, intanto è già fatto lo freddo, dai. Io sono già pieno, ce ne sta uno o due e anche tre ce ne stanno ancora, ma sono così, cioè i ripiani sono tutti pieni, per farci di stare ci devo mettere sopra gli altri apparati, è cosa che non mi va, mi piace averne un altro mio ripiano come ce l'ho adesso. Fatti fare un altro mobile già. Ah, una mi dice la 25 canali, lo sta vendendo, io un affare vintage mi sta, io con gommino o senza. No, gommino voglio la pedivella io, se non mi scappa poi, capito? E già vabbè, tu base cosa c'è? C'è qui nuova, e tra i baracchi veicolari. No, io no. Sto facendo un lavoro tra l'altro perché avevo smontato l'altra base, uguale a quella che ha fatto Giulio. Però mi serve, la devo mettere. Devo rimettere la L perché sto arrivando uno e poi altre tre sono in ordinazione. Perciò mi serve quella lì. E poi ho fatto a Fusaro di ordinare altre 4, perché non ne ha più, li ho comprati tutti io. Ne aveva 3, c'era 2 MB5, 1 MB4, li ho comprati. Se ho di ordinarne altre 4, 2 MB5, 2 MB4. Quando arrivano alla radio ci metto anche il microfono, sono 12, 13, 14 MB+4 o MB+5. La collezione del fatto. Ogni radio c'è il suo microfono a tavola, cosa compri? Tane più te, che non detta, nel senso che li trovi usati, io non compro più i microfoni usati già, li compro nuovi. Tipo vai a comprare gli usati 40 euro. Capito? Quando io ho pagato lo MB+4 60 euro, lo MB+5 70 euro, ma almeno sono nuovi, non me ne ha fatti nulla cosa, no, non è finita, non so, per montare l'altro pezzo della base che ha fatto Giulio, quella è tutta piena lo stesso, quindi c'è tutta la area di nuovo piena di baracchini base vintage, baracchini base vintage. Apparati sono questi ce li ho da un'altra parte, questi sono 4, e rimangono 4, con 4 MC60, anzi 3 MC60 e 1 MC50. Va bene, avanti Antonio, riprendi. Ehi, capa, e adesso? adesso? Sì, no. Qua per andare un po' meglio, anche chi dove è andato? È andato un po' male, è andato quell'altro, mi sono preso questo che già, già vabbè, oh, senza mani parlo pure. Troppo dopo. Adesso appena che posso, l'altro passo è che mi prendo un apparecchio serio, davvero, e poi basta, non ne compareggio più. Devo comprare lineare. Ah tu, siccome ti conviene la cosa, ne ha un bel apparecchio, costa un poco, mi dà Amplifon. Io che via Mazziglia ce li ho, c'è anche l'elicottero. E mo con 4,40 e non che, guarda che mi faccio schiatta. Guarda, ce l'ho avuto, lo regalo io 4,40, quello te lo posso regalare. A chi non vorrà che mai comprarne più i 4,40, porca ricchezza. Porca ricchezza, di divisione del radio. Divisione fa 2 anni fa, era buttato a capo. Capito? La buttare via di nuovo, faccia via, non la compro mai più i 4,40 io. Meglio nulla, c'ho 4,30 e 2,140 che sono uno spettacolo, questo è il primo. Tra l'altro lo vorrei fare sicuramente mercoledì, perché l'ho mandato al centro assistenza ad allineare tutto, devo arrivare nuovo, perché la radio è nuova, devo arrivare nuova, tutto ad allineare, a controllare, a vedere, deve essere spettacolare, capito? Perché l'ho comprato usato e quindi l'ho mandato ad allineare sul continente, perché qua purtroppo io non c'ho gente che mi fa niente e quindi vado e me lo vado a fare. Appena arriva lo provo. Allora poi ce la mettiamo in vendita. Quarta gatta. Capo, mi sono sbagliato. Cosa c'ha quella lì? Da buttare, cosa c'ha? Il 4,40. Ehi, che problema c'ha? Che problema c'ha? Io mi ero venduto. Io mi ero venduto, ma si era fermato di nuovo. L'ho fatto di nuovo sistemare e poi l'ho venduto, non lo voglio più sapere. A me su 9, 8, 9, 440 mi usciva una cassa nuova in tutte le riparazioni che ho fatto. Per carità, no, se mi prendi da noi, se no, ti ricordo che da lucernaio ti ricordo. Secondo io su, voglio una radio che non mi dia problemi. E più là, adesso metterò ciò da parte, devo risolvere una cosa, devo risolvere, poi mi metto ciò da parte e me lo biglio. Ma nessuno di voi ha un da vendere, un MBP4 in più? No, ti compri un MBP4 a 40 euro, dollari, ne aggiungi 20 euro e te lo compri nuovo. 60 euro mi, se no te lo compro io. 60 euro a me me la date, no, volante la scatola, c'è la scatola qua. E ne ho ordinato altre 4, 60 euro. Per qua mi serve, dai, ho un scherzo di microfono in mano. Perché se mi porto quello di che ho a casa, poi rimango là sempre, devo, cioè, non è che... Poi devo stare lì, ho un microfono in mano. Capito, ma intanto se vai a comprarlo usato, lo trovi a 40 euro, con 60 euro devo comprare di nuovo, io non lo so comprato nuovo, due ne ho comprato nuovi, capito? Perché sono arrivato altre due radio e quindi ne ho comprato altre due, adesso ne ho ordinato due tantonello, ho ordinato altre 4, 2 più 5 e 2 più 4, capito? Va bene, va bene. Non fate l'errore di prendere 4,40, prendete 140, C80, se trovate un bel 4,30 non dà lo stesso problemi, ma i migliori che non danno problemi di niente sono 140 e C80. 4,40 è diventato oramai troppo vecchio. Già è nato male, perché io mi ricordo lo comprai nuovo da Mario Nottari. Dopo 2 anni il primo problema, sempre sul VCO, e me l'aveva messo a posto il VCO23 di Chiaramonti, allora che faceva lavori, perché qua non c'era nessuno che faceva quel tipo di radio, capito? Facevano solo baracchini, quindi già era partito male e poi ha continuato con lo stesso problema sempre le 12 ore. Adesso lo porterà avanti in vita naturale durante, quindi quando vi offrono un 440 bellissimo, impeccabile esternamente, ma internamente il problema c'è. E se non è revisionato da poco vi lascia piedi e poi revisionare e rifare un ciò. Su quella radio ci vogliono 220 euro, quindi occhio alla penna. No, oh, io in radio così non li voglio, no. Oh. Io ve lo sto dicendo per mia esperienza vissuta. Io sono uscito a sbagliarlo e non entra più qua 440. Bella radio, funzionante al 100%, però c'ha mille difetti. Mille difetti, io sono tornato al mitico 140, e c'ho anche il 430 che non metteva problemi, però c'era un HF. E il 27 uso il 140. Era più che soddisfacente, poi ho preso un altro, nuovo, proprio nuovo, nuovo, nuovo, da un radioamatore che non c'è più, che lo usava per fare spedizioni, non c'è un graffio, bellissimo, nuovo, nuovo, e l'ho mandato ad allineare, a fare un bel allineamento, una bella manutenzione, dovrebbe spedirmi da lunedì, così mi ha detto. Dopodiché vediamo quale devo ottenere, se ottenere questa o ottenere l'altra. Una non la prendo, non tengo più tanto il radio. Ne tengo una e bu. Quella è K. Quella è bella, quella spinge, cavolo. Questa che stai utilizzando adesso è bella spinta. Quando è allineata bene, questa c'è ancora l'adesivo di Bianconi, anche questa. Anche questa l'ha fatta Bianconi, allineata Bianconi, controllata Bianconi, infatti gli ho lasciato l'adesivo dietro a affrontare che ha messo lui, perché lo mette sempre. Capito? E va benissimo, nuova nuova, anche questa. L'altra non è Bianconi, comunque è una persona abbastanza brava, che mi hanno presentato, molto meno chiara di Bianconi, ma la sta facendo. Appena arriva quella, valuto cosa ho speso, in tutto faccio due giri di conti e la vendo, quello che ho speso io la metto in vendita senza né guadagnarci né specularci. A me non campo da radio, io una tutta sola a me. Avanti a chi tocca. E per che cosa? Per me? Ma no, che no, non ti andava bene il 140 a te? Ma tu stai collegando con la persona che è entrata in macchina, non c'è la stessa voce sua, tu no. Lascia perdere. 1050 e tante altre radio non vanno bene neanche. Assolutamente. A me perlomeno non mi piaceva nemmeno, non mi piace la modulazione che ha. Non c'è, non ha nessuna spinta, non ha niente. Rimane con questi toni mediocri, no. Lascia lì, poi io con i soldi tuoi ci devo fare quello che vuoi. A te che mi metto gli occhiali, nel corso è abbastanza preciso lo smitter, vai. Dopo 10 con picchi positivi a 9.15. Come sto scendo io? Bene, bene. Ho regolato la smitter per te, ho regolato. A me non sono tranquillo adesso. Adesso è perfetto. Che ricevo giusto, giusto. Altre cose mi insegnare sono giusti. Guarda adesso Claudio come vado. 1, 2, 3, prova. 9, quasi più 30. Ma va bene. 25 con picchi quasi a 30, 28 così. La radio buona, ottima, meglio dell'altra. Allora, con pochi passi c'è quasi la mia stessa, il mio stesso segnale con pochi watt. Chi? Gianni. Sì, sì. A parità di potenza avete lo stesso segnale, sì, solo che lui quando attacca te ne prende 10 punti. Ma io non ce li ho 200 watt. Io ti ho detto come fanno le cose. Lì ci siete uguali, quando attacca 220 e 230, capito? Sì, già, questo è un bel abbinamento, non l'avevi già fatto l'abbinamento, però l'avevi già provato, lo sto facendo adesso. Ehi, ti ho detto, l'avevi già fatto questo abbinamento col Cobra? Come faccio ciò che come si chiama? Come della Intec? Ah, ho capito, ho capito. Va bene, va bene, tu fai la barba, Luca, tu sei liscio alla 30, la mazza che te ne vai. Sì, ho sempre liscio. Sì, liscio sì, quanto già ne ha attaccato, boh, non capisco questa differenza che avete, boh. Cosa? Non lo so, boh. Così vedo io, e così dico, tu sei 9+30 pieno, liscio, se quello è dire liscio, insomma, con quei watt che stai usando. E lui invece arriva a 9.30 con 200 watt, boh, non capisco questa differenza, proprio enorme. Aspetta, io quando sono lì esco con 3 watt e mezzo. Sì, no, già, anche lui si mette a 3 watt e mezzo, tu sei 1,15, lui a 3 watt e mezzo è 9,20. E vabbè, magari anche la zona, non lo so, o sarà migliore l'antenna, buh. No, non lo so, c'è troppa la diversità, ma è una cosa allucinante, ma nessuno arriva così come Luca. Luca c'ha il segnale dal latte dolce quanto è quello di Marco liscio, perché è più forte di quelli che hanno il baracchino lisci con 4 volte e Marco Condo, mi arriva a 9,30, però è molto più vicino di lui, lui dal latte dolce mi arriva a 9,30, allucinante. Io arrivo quanto Gianni più o meno, però con i batti normali. Schiaccia la portante tu Antonio, per favore, senza parlare, schiaccia. Schiaccia tu Gianni. Gianni, Gianni. E poi io qua lineare non ne posso punire, infatti non nascio, per questa radio non ne ho, capito, sicché e posso dire che sono curisci proprio. No, lì non c'è, no, per attaccare la lineare ci vuole il carretto di commutazione, sempre quello che stavamo parlando, ti ricordi? Sì, ma infatti non mi interessa neanche metterne, capito, Claudio? Uso i watt della radio, dell'apparecchio così come esce. Che allora il 747 che tempo fa lo avevo attaccato a un baracchino. Infatti mi pare che me lo veda che non ne posso proprio nulla. Non c'è un ottimo segnale, non capisco perché tu sei molto, molto più lontano, molto più giù e mi arrivi con questo segnalone. Evidentemente la mia antenna avrebbe più a te che a Gianni, non lo so, boh. Guarda con questo come vado, Claudio 1, 2, 3. Questo si è attaccato? K. Questo è leggermente più basso già, non ci arrivi a 30, sei intorno poco più di 25. Sì, ma la radio mi interessa, come sta andando la radio? La radio è bella, anche il cobra e questo sono, come che non si è attaccato? No, io ho pochi watt dall'apparecchio, pochi watt, qua. Ah, fermo una cosa, provo a brille, tutti. Ah, vai da vedere, com'è? Se li apri tutti sei 9+18, appena appena più avanti del segnale di Gianni. KK, vabbè, adesso lo rimettiamo come era prima. Non corrono tanti watt. Adesso sono con 3 watt e mezzo. Con 3 watt e mezzo c'è lo stesso segnale di Antonio. Cava cava, già va bene. E questo qui lo stesso era un po' che non accendevo, adesso mi sono dedicato ad accendere questo. E probabilmente il Galaxy è troppo forte come watt, non lo so. Perché a me mi segna 2 watt e mezzo, però buh. Quasi che sia anche sbagliato quello che segna, non lo so. Ma già faccio un pensiero, o Cobra o quello che ho provato ultimo, io avrei agganciato l'RMIT, l'avevo lasciato fisso, perché il Cobra addirittura quando agganci si solleva anche la modulazione, ancora più forte, capito? Quindi secondo me è un bellissimo abbinamento. No, il Galaxy no. Galaxy va bene liscio, quando attacchi anche con 747 faceva così, ti porta via la modulazione, io sento sempre la saturazione, mentre in questo no. Davvero? Davvero? Poi, ma ci viviamo buonasera a tutti, dai. Ciao Massimiliano, buonasera.